stazionarie. Oh, tutte le A, B, C, D, E, 1 e 1. Io non ho capito che ha fatto, sta facendo massa adesso il palo. Ah, per quello, E io credo, E se il giorno facendo stupido di acqua, anche c'è lo stazionario che non si muove. Nulla, è proprio zero. Meglio così, sono contento. L'unica cosa che si è sbarrato l'alimentato vegano, non so perché. E la panicotta proprio lo accendevo, adesso l'altro giorno l'ho acceso. Dopo la mezz'ora ho cominciato a fargli aveva il trasformatore. Deve essere che è partito il proprio io di senz'altro. Adesso con questi giorni glielo cambio. Ma non è che per caso è uno Smith di 3009 o simile? No, sono tutti dati quelli, tutti, non è rimasto manco uno Smith di 3009, manco di FM500S, addirittura tutti regalati, quindi diciamo 3 o 4 avevo tutti i dati. Vabbè, in cambio gli davo, vabbè, i soldi, oppure gli davo uno di 48, di 68. Cosa vuol dire? Calandaccio, sarebbe su. Non avevo neanche uno, se no te l'avevo regalato, non avevo avuto neanche i soldi, non sai che io non me ne fotte nulla. Cioè, c'ho qualche baracchina per pezzi, che c'è un Smith che uguale 24.009 te l'avrei anche dato. Purtroppo non laggio. Vabbè, te l'ho fatto offerto da me, non sai, proprio non ce l'è. Al supermercato. È chiuso ancora quel bar. Aperto 5 minuti stamattina per pulire. Apre il 7. Anche Andrea apre il 7. Vabbè, ti avevo comprato una caccia di birra, beh, anda. Ce l'ho. L'ho comprata prima di Natale, per Capodanno ce l'ho ancora. Ho consumato molto, ma molto poca di birra, spumante, cose del genere. Quindi figura di più. Cucciarita, No, birra non è sto bel freddo. Giusto usi qualche spumantino, ma niente di... se non mi dava 12 watt, adesso ci sta salendo a 15 watt. E non sei contento. Salga a 15, anzi meglio di niente già. Quando ti arrivo pompo, guarda un po'. Sono 10, sto usando il 3009, sto usando io. Quello nero, cioè che gli ho messo il frontalino nero, invece con il 4000 gli ho messo il frontalino del 3009. E il frontalino con il 4000 l'ho regalato a Tomino Kawasaki. Ah, ho capito. Da l'U10 va più che bene, no, già sta andando bene questa antenna, là. Ciò che non mi piace quanto è piazzata, devo trovare un sistema dove metterla meglio. Sì, appena si sistema il tempo, via limite ti metti le gaffe come si deve e le cambi posizione, già ne hai posto lì. Perché... mettendola sul tetto, quell'antenna lì, con un cavo un bel lungo, non credo che renda. Ma della palla 27. E la boomerang. La boomerang quella grande ho io. Mettendola sul tetto, con il cavo troppo lungo, non credo che renda. Ah, già vende, a voglia. Ci esce bene la boomerang, non è l'antenna da buttare. Meglio della lingua già è, questo è poco ma sicuro. Sì, vabbè, ormai... stavo piazzato, però poi, va. Ho lasciato perdere, nel punto dove la stavo mettendo non andava bene, purtroppo a quello di su non andava bene che passa, dove passava il cavo, allora ho deciso di staccarne tutte, buonanotte. Ah, in facciata glielo stai passando, dalla parte sua. Ma dove abiti a casa di tua madre o dall'altra parte stai parlando? No, la 25. Ah, non sai cazzo quando si passano i cavi davanti in facciata, ci sono quelli che devono farla passare e quelli che la fastidio, capito? Però quando per dire c'è qualche problema all'antenna ti chiama e dice guarda sistema di cosa, passa quello in facciata, ma, capito? Magari passa davanti a te, tanto per dire, e sta zitto. Anche qui se senti qualcosa, a me me l'avevano fatto togliere perché passava il cavo a fianco lui gli dava fastidio, ho capito, perché c'era il coso marrone, colore della facciata marrone e il capone nero, quando abitavo giù al primo piano, allora mi aveva fatto staccare tutto. Poi da lì, vabbè, è andato, io lo sai, al centro storico, e poi da lì sono salito in Mansalda. Qui già non mi ricordo nulla, il capo mi scende direttamente nel palazzino mio, dentro casa, e sono a posto, anzi nella casata, nel palazzino. Quindi entra direttamente all'interno della Mansalda. Ehi, vabbè, la lascio lì e buonanotte, no, non ci sono problemi. Non è un problema. Poi, siccome dovrebbero passare non adesso, quindi là a mettere a posto le ringhiere, rifare la facciata, sicuramente dovrò staccarla. Vabbè, quando fanno la facciata, tanto la tingeranno, faranno qualcosa, li metteranno un isolante, se non si piazzano il polistirolo, ti fai mettere il cavo sotto al polistirolo, la facciata e non si vede un accidente, muovi lì quel cavo, capito? Piazzate la sopra al tetto, quando sistemano le cose, e così sei più tranquillo. Ci mancherebbe. Eia. Ho tentato a fare l'isolamento, ho capito. Ci metteranno un polistirolo, oppure con una specie di legna fossata, capito? Poi prendo ci mettono la rete, lì dopo è fatta la facciata nuova isolata. Poi tingono e con tutti i capi che sono in pratica che sono impacciati rimangono nascosti all'interno, capito? Muoviano di lì. Vedi, uno passano magari dall'interno, va bene. Quello sì, magari in qualche tubo lì sul viale va anche bene. Nascosto bene, non si vede niente. Lo so, qua è un casino, dai. Cioè, qua non la posso anche piazzare, attenzione. Però, dai, evito, è meglio. Perché devi evitarla, va? Se te la fanno piazzare, in quel momento lì, per prendere e installare la doca in cui quando fanno la facciata. Il cavo con la lì, anche l'antenna la lasci sopra il tetto, non devi stare a staccare niente. L'importante è che entri dentro a casa. Non so, vabbè. Ma secondo me la boomerang con 8 metri ha una resa, con 30 metri ha un'altra resa. Con 8 metri di cavo perdi di meno, già lo sai. Se c'è 30 metri di cavo, vabbè, esci sempre bene, però sei molto più alto. Quindi recuperi ciò che perdi, capito? Magari dovrei mettere una 50 alfi. Tipo, c'è di nuovo la moto va turbo. E se non piace la cima, abbiamo 27 e muori lì. Devi pensare che un domani, magari lì non rimani, capito, cambi casa e ti metti una tonna che hai pagato poco, non mica ci puoi lasciare la moto da tubo. Una volta che è lì, morirà di rimmi. Ah, io gli andrei a smolto, ma sinchimio. Vabbè, quello... per la moto è poco ma sicuro, ho portato la mia 27L, tanto per dire, con la bomba che l'avevo lasciata, la stava in Kiwi. Lo so, mica la lascio qua. E poi c'è quella che c'è Marco Scorpio, è carina come antenna, non costa manco molto. Non so che antenna sia. E la Sirio, se mi ricordo, Sì, ci sono tante, ci sono quelle a 16 radiali, quelli a cosa. C'era una buttata, deve essere andata attaccata, buttata sopra il tetto, Roberto Pinna c'era. C'era la Firenze 2 Explorer, che c'ha roba di 16 radiali, c'ha. E lampada in chibi sopra il tetto, capito? Solo ci vuole una scala lunga per poterci salire. E siccome pesa l'antenna, pesa quasi 2 kg, pesa. Perché è grossa, capito? Vabbè. Interessante che magari quando si spezza che rimane su, che non faccia danno. Quello che mi interessa. Infatti lì a casa, adesso vediamo l'anno nuovo, verso febbraio, in primavera, ne smonto tutto. Da Roberto Quadrato mi faccio costruire due belle staffe, vado a comprare il materiale, fatto come le fa lui. Di quale stazione a voi? Ci voglio, di quelle che trovi in quelle parti del... che sono scavate di gioco, dove state a voi? Addirittura ci sono anche state a camminetto, belle. Quando sono salito non c'è caffè, che non c'avevo la mola a batteria, se no l'avevo tagliata come sta prima, l'avevo batteria, quella da camminetto. Quelle si chiamavano belle. Ci installavo il palo e si è stato tranquillo. Sono chiamato anche le colenze anche a cosa? A V, anche quelle sono belle, belle larghe, belle grosse, non hanno un punto di ruggine, in acciaio sono. Eh beh, l'acciaio non si arrugginisce. Ma sono quelle zingate, lo stesso già durano, dai. No, quella che c'era me l'aveva costruita Adriano, penso 10 anni fa, però stanno reggendo ancora, però è un casino. Dovrò salire. Una lievigatina le do con la molesta, gli spruzzo la bombolezza di zingato, così sono più sicuro, sennò il ferro si razzigheggia. Beh, è logico che a lungo andare, cioè, figurati, c'era già 10 anni, quindi c'era già punti di ruggine e cose del genere. Dico bene fare così. Ma cosa state dicendo? Io per favore. La benivella. Allora, per il vela, manubri, cerchioni. Ciao, grazie. A proposito, non trovate tanti soldi a cerchioni? C'è vari che non lo vedo, non lo sento più. Ancora la vivo. Ehi, ehi, sempre lungo, fine. Già va bene, meglio così. L'importante che sia bene, che sia tranquillo. Quando dava voglia di entrare, si la gara, già siamo qui in 27, sempre. Vedi, mentre c'è la camera d'aria lo vedo spesso, a Luca. Ma Luca non ha più intesi, non ho più visto io, la verità. Vabbè, di solito voleva al bar che c'era all'angolo, angolo via Duca di Labussi, perché frequentava lì. Poi non ho, guarda, ci sono più andato in quel bar lì, a quei vecchietti rincoglioniti, quindi non l'ho mai più visto. Un attimino, mi assento 10 minuti, dai, riprendo fra un po'. Se c'ho questo cavolo di mal di testa, voglio mangiare qualcosa. Mi prendi qua. Ehi, ma mangia qualcosa, non dolce però. No, c'è panettone pandoro, no, ce n'è roba dolce, no. C'ho mal di testa, non lo so, boh, forse il tempo, lo stress, ora mi so, boh. Andare. Il tempo è, fatto lo stress, il tempo è. Va bene, sono qua Antone, sono qua. Sì, dai, così domani compro la crema di whisky, uno di questi giorni viene e ce la beviamo, ora. Cappa del rosmetro, almeno ci passa tutto il mal di testa. Sì, porta anche a pomponio. Già, vabbè, la crema di whisky non mi assaggio più da un bel tempo, mi è arrivata la birra a me. Già c'è anche la birra, c'è spumante, vino, questo vi fu, dai. Quando si mette d'accordo con Claudio. Sì, vabbè, quando volete voi, appena fuori il bar, al limite, si può andare al bar, già beviamo qua il babuito, non c'è problema. Andavè. Certo, c'è andata la TV tutta girata a Osio, cazzo. Io mi ha fatto danno, mi ha fatto quel vento. Ma non mi ha buttato giù la mantova. Pensavo di trovarla nel palazzo di fronte, invece ho visto che avevo bene. Invece la TV me l'ha proprio girata, puntata a coso, a Osido, già si vede qualche canale, non tutti, e ci salgo domani se partendo con quest'acqua, non sarà, non devo fare la fine del vigile del fuoco per gli altri. Quando la voglia di quella che si lamentano, già chiamano il tecnico e salgono e se la piazzano, come si deve. Prima ho visto che la moto batte la coricata appena appena, però... E siccome il vento non l'ha fatto. Ma la mano non mi ha portato via la VHF, perché la pigliava in pieno quel vento lì. L'ho ancorata alla pianta, l'ho ancorata. Vabbè, il palo non ce l'ho in quella... nella V... con la bianca. X300, c'ho un piedistallo di quelli metallo pesante, che usavo quello bellone. Vabbè, aspetta un attimo Antonio, che stavo chiudendo la radio un attimino, già riprendo subito. Ehi, va bene. E così è, purtroppo è così, KK. Allora, Oggi sei sempre più dell'alimentatore, no? No, non sento niente, tutto a posto. Sei nato un tipo l'alimentatore grande, quello nero. Strano. Ho acceso poche volte. E ho cominciato a... L'altro giorno ho acceso, ho fatto un... trasformatore, cazzo, ecco, non può essere. Sono partito con i due condensatori che ci sono. Adesso uno di questi giorni lo smonto e controllo i condensatori se sono in pezzo, gli cambio. E poi cambio anche i punti di video per sicurezza. Già c'è un anno con l'alimentatore. Da quando ho comprato il film, quanto sarà? 20 anni, cazzo. Non mi ricordo quando è che ti avevo dato quello là, io no, adesso non me lo ricordo. Beh, cosa ne so, gappa. Mi sono trasferito in Gavardabà, sono trasferito mi pare 2 mesi dopo. Io avevo preso il primo duro dopo, perché mi ha detto che non avevo che avuto, quindi avevo preso che ero qua. Quindi avevo 26 anni quando sono andato via da lì, a Barraggio 59, più di 20 anni insomma, cazzo, che è durato già, a voglia, un autocostruito. Sì, cosa riesce a tirare bene, già funzionano bene. Se mi dopo le palle, guarda, resta con la vetta salvatore. Faccio direttamente, ci metto un alimentatore switch da 50 ampere dentro e se la piglia in culo mi diventa anche più leggero, perché adesso sembra un buco nero super massiccio, sembra quando vai a prenderlo con le malecce, già pesa poco già. Signor Vista, io questo radio Antone, certo che qualche problema troveranno sempre, ma se li tieni sotto controllo funzionano sempre bene. Che il fatto che non da parecchio non lo stavo usando questo alimentatore qua, capito? Era sempre fermo insieme ai barattini, perché già lo sai, ce ne avevo ogni tanto. E stavo già... Sono intanto da quei numeri, ancora sto facendo qualche annata, però non prendevo nessun problema, invece io ero stato. Come acceso giù di tutto, dopo mezz'ora l'avevo lasciato baracchino di ricezione nel 2009 per farlo scaldare. Sento questo vibrando la carrozzeria proprio giù di tutto, non può essere. E quindi evidentemente è saltato i ponti di Rio. Adesso domani o dopodomani vado a Fusaro, se non finisce di piovere, perché lì sta piovendo mattina e sera, cazzo. Adesso siamo già 5 giorni così, cazzo. Non lavora, cazzo. Non c'è, prima è sempre caldo, sempre bel tempo, adesso sempre acqua, mattina e sera, mattina e sera, mattina e sera, anche domani piove, cazzo. Tutta la settimana così, poi dice che calma un po' e poi vediamo con la situazione. Poteva nevicare, potevi fare acqua, faceva 2 metri di neve, va a far culo, ma a me ci siamo divertiti che secondo 2 metri di neve. Siamo andati, ci avevo fatto la frutta a casa con le cassette di legno almeno. Sei sceso da qui, sei arrivato via Duca e poi sei salito a piedi. Beh, a piedi sì. Questo poco è una zarda. Tu avessi fatto le sci e ti avessi messo in sci da casa tua. Tranquillamente sei arrivato fino all'angolo con via Duca di Raduzzi, facendo via Milano. Beh, sicuramente sì. Il problema è che c'è quella specie di coso di fronte alla caserma dell'esercito, cazzo, quello che ti devi piegare per poter girare. Se no ci sei seduto a come si chiama? Via San Paolo, cazzo. Un anno quando ha nevicato già ci siamo messi via Milano, ci siamo divertiti un bel, ma ce n'era un bel in F. E se ve lo ricordo. io quando, quando avevo il residuo arrivavo qua all'infondizione e iniziava la neve fino alla, a Osiro, me lo ricordo spesso. E poche volte ha fatto un bel neve, ma a Sassari. L'ho fatta parecchi anni fa, sembra una nottata, una cosa del genere, 3-4 giorni un po' di neve. Poi ci sono state poche volte. Oh, quindi non hai, non hai sci, beh, ha nevicato poche altre volte. Quella più forte mi sembra che erano 80 sci, una cosa del genere. Io ci ho salito in moto addirittura, lì a Usla. Immaginati tu, piano piano, piano piano, finché sono riuscito a salirci. Poi è bella la discesa, era un casino, non potevi toccare i freni, dovevi mettere i piedi in terra, piano piano, andendo. Vabbè, bei tempi, attorno a bei tempi. Beh, già lo credo. Vabbè, sono più che acqua, non fa questa qualità di legna. Sono andato a rifornire, ma come mai ha aperto il bar? Cosa sta facendo? Da sport, ma non si vergogna, ragazzi. No, è chiuso, chiuso, stava furello stamattina. Deve essere che apre evidentemente il 2, senz'altro. Perché mi ha detto che apriamo il 17, mi ha detto. Ma mi sa che apre prima. Perché se, questa, stamattina ho visto che l'aperto c'era la macchina sua e basta. Non c'era neanche la macchina di Tiziana. Quindi evidentemente stava furendo. Ma stavano facendo magari i conti di quello di ciò che serve per riaprire. Il 2, non può aprire il 2, il 7 si riapre. Cos'era il 2? Che se fa sport, boh, mi sembra di sì. Ah, se fa da sport, sì. Allora va bene, ma cosa deve esportare ai kiwi? Meno le sigarette, potevano vendere per dire. E il caffè a qualcuno, solo che indico bevono un caffè fura. un freddo, ragazzi, quindi dico, ma ti si raffredda il caffè in mano, ti si raffredda. Ancora non hai capito niente. Asporto, prenderti il caffè e andartene via fuori dalle balle, non lo puoi bere fuori, non puoi stare lì, dovevi prendere e portare a casa. Ho detto, infatti, quando prendi il caffè, lo bevi già freddo, infatti, tu puoi andare tranquillamente a casa. Di certo mi dite pure, vabbè, altro non puoi bere, perché sono i caffè fare, poi si possono fare. Si aprirà il 7 senz'altro, a me mi ha detto ci apriamo il 7, mi ha detto. E a me, se continua a peggiorare le cose, tanto che il 7 mi pare che aprirà a aprire, vedrai, a marzo. Esci, continuiamo di turbarci, o altro che balle già. Aspetta un attimo, Antonio, arrivo subito. Ehi. Radio. cucciù. E vai, vai, sciocucciù. Non ti sta arrivando, no, Antonio. Aspetta che giro il di polo. Adesso ti sento, ma poco fa non riuscivi in radio, non è che non riuscivi il segnale. Ma mica non ero io, ma so che è la prima voce che entro oggi. Ah, non pensavo, vabbè, allora non c'è problema, dai. Fai pure, già sono qua. Chiama appena, quando sei pronto. Dammi un segnale che sono in verticale adesso. Vabbè, aspetta. Mi metto il BGT. Allora, passaggio. Prego un po', 1, 2, 3, com'è il passaggio? 1, 2, 3, KK. E 25 in questo apparecchio qua. 9.30, allora Claudio. Al contrario, dai. No, sono 9.25, quindi sono col 2009, figurati. Ognuno c'ha, cioè, la regolazione dello Smith è differente qua. Capito? Sono col 2009, quello nero, naturalmente. Con la mascherina del tornado. Poi l'altro apparecchio ce l'ho dall'altra parte. Ma cosa c'hai? Lo Svita, guarda a vedere. Strano, non lo so, va bene comunque, 2925 già va bene. È usato lo Svita, cioè c'è lo Svita è suo. KK, andor bene meda. Sono... Vattene adesso. Ok, gente, bene, ha voglia. C'è anche l'avanzo. Aspetta un attimo che abbasso. Scala 20. Devo mettere, se tengo scala 20, devo mettere 7 watt di portante, se no con i picchi di modulazione sta largo sbatte, capito? Perché ha molti picchi di modulazione sta radio, che e sicché devo mettere 7 watt adesso. KK. Esce bene a volte, non so che apparecchio sia, però già sta uscendo bene. Una buona modulazione. E sempre 706. Così senza compressore. 1, 2, 3. E così ho il compressore inserito. 1, 2, 3, prova. No, lascialo col compressore che è meglio. Ehi, gaffa, microfono SM20, gaffa. Voglia che c'è bene, ci mancherebbe. Adesso l'unica cosa che devo farmi io il coso. Quando la giugara la prende il mio microfono da tavolo e agganciarlo alla cosa. Allora io esu. Capito? All'857. E all'857 bis. Mi pigliamo un MD24 se va bene o qualche altra cosa, basta che c'è il microfono normale, non mi piace bene. Capito? Non c'è né tastiera né nulla, è il microfono normale normale proprio. La tastiera ce l'ho nell'altro, in quello cinese di VU. Nel VY898. Ah, io ho capito. VV898, bello bello, KK, e mettete un microfono di tavola anche lì, nell'857, allora. Se guarda una gallonata tra i baracchini, boh, non so più, dove cavolo vuole metterci questo tavolino. Cioè, il 2009, l'anno 87, il Connex 4000, poi c'ho quello modulato che avevo comprato, guarda quello un apparino, lo Iaesu e in più... come si chiama, quello V898. In più c'ho 6 portatili, i 2 Bofend, 2 VHF normali, e in più c'ho anche i 2 marini, nuovi, della Pacific. C'è più, c'ho portatili piccoli, ma quello c'è mezzo vato, non serve un LPD, a parte che 2 VHF vecchi, cazzo, come un cucco. Iaesu LFT411E. Ah, mettili su Facebook e vendete tutto. No, me li tengo. Tanto so di non me ne chiedo, ma dammi la foto. Ti lascio. faccio così, non prendo altro, non avevo capitato, no, no, sarà, faccio anche due lineari, c'ho le bestione, il BV2002, cioè il 2001, quello da sintonizzato, cioè, e poi c'è quello piccolino, il CT famoso, lo Spirit CT, a voi è anche basta. Se volevo regalare un BV2002, BV2001 mi è capace, mamma mia, gli ho detto, no, no, lascia perdere, non mi voglio, passa ben lì. E detto, come l'accendo mi rimangono il condensatore in mano, lascia perdere, cosa più smontarlo che acqua, cambiare il condensatore. Ma quella valvole? Sì, quella valvole. Lo stavo regalando Giuseppe Bandiera Gialla, ce l'ho voi. No, no, no, ho detto, la casa, gli ho detto. Non me ne portava nemmeno, ho detto, ne ho già uno, gli ho detto, l'ho dato, ho detto, a sistemare. Perché c'aveva dei problemi, quindi non ne voglio sapere né, di altre roba a valvole, gli ho detto, ci vuole più a smontarlo che altro, gli ho detto, per fare due condensatori cagati. Ho detto, tieni la casa, detto, perché come lo accendi, gli ho detto, sta attento distante, gli ho detto, non sai che ti rimanga in mano il condensatore, gli ho detto. Perché era più di 10 anni che non lo usa. Nulla, Non ti fidi di accenderlo. Come scala, dopo un 4 da 20 minuti poi alla fine, come è successo a me, che ne avevo cambiati con i sattori, quanto è rimasto? Non l'anno e mezzo, mi sono allontanato, sono andato a prendermi la birra dal laboratorio a fuori, boom, ha inteso, cazzo, con i sattori partiti, uno di acido, un fumo bianco, cazzo, gli detto, va a far culo lineale, ho preso e aiuto, prospero, dove è cazzo, ci butto tutto, gli ho detto. Infatti, ma poi bisogna darle in mano a chi ha gli strumenti, tenerle sotto, che uno attacca la spina e lasciarle andare così. Prima devi verificare che funzioni tutto bene, no? Il condensatore mi ha dato fusato, sono capito, quelli in cartone. Dice, ce li ho Antonelli, cioè, mentre di questi sono nuovi, funzionano bene. Lui, mezz'ora sono stato, mi sono tornato un attimo a prendermi la birra, come sono rientrato, mi ha chiamato Fabrizio, dice, vieni Antonelli che è saltato lineare, mi ha detto. Ho preso, gli ho detto, guarda, ho detto, non mi vado con la penna, gli ho detto, mi dico lineare, ho detto. Te ne dico, te. Io ho cambiato i condensatori, ma peggio di detto, si sono incendiati, ce la faccio a fare tutti i giorni cambiando condensatori, ho detto. E io ho tornato indietro. Era un coso, era un giabbaristo da te. Ma la valvola, passa un veicolare, buono. Anche 24 volte, sono piccoli ma sono una canonata quelli a transisto, vanno benissimo, hanno suavissima ragione, poi se non ci vuole mettere gli strumenti ce li mette, ma ormai guarda bastano questi piccolini qua. Io lo so, ma adesso devo fare la modifica, quello che ho io, pratica, quello che ho io dai 2450, devo fargli la due fuori dietro per poter avere l'alimentazione esterna per poter pilotare per dire Milano 750, tanto per dire, siccome il trasformatore è grosso e posso trovare tranquillamente un lineare di camion, capito? A casa, non posso stare a cercare il mio alimentatore, ce l'ho già pronto, ho fatto che agganciare due cose, due banane e sta andando. Ehi, agappa. Che paroce. Ui, non c'è più nessuno qua, cazzo. Passasse, tutti fare in chiesa. Infatti, la cosa non entro mai, non va mai nessuno. Poi mi sciuffo, mi chiudo tutto e mi sto entrando in salone, capito? E io ti devo chiamare anche bussato a cosa. Vabbè, c'ho il computer, mi posso accendere il computer, ma quello che facevo il computer lo posso fare anche col telefono, così che. Beh, quello sì. Ho visto che hanno modificato il coso, che hanno modificato per girare i canali, cazzo, adesso. Adesso quando giri i canali, cazzo, senti cosa fate. Thank you. foto che c'era questa... quando cambiavo canale faceva il bip, faceva cazzo, e potevo fare la modifica per metterci di quei microfoni di Codemax, ma era più gatto. Sapete, non c'è più nessuno, prima c'erano tre o quattro, c'era due, una di Alghero, una di Almero, c'era, non lo volevo, sparite sono, non l'ho più sentito. C'è anche la pubblicità adesso, c'è addirittura sotto, che appare il coso pubblicitario. No, l'altro l'ho tolto io. Si mette a dire, c'era uno che stava chiamando CQDX, era attenzione amico del Nord America, si ascolti il Sud Italia, cazzo, ma che c'è tutto fuori da bambina, gente, ma corrisposti a quello. Questo è smalicotto, cazzo, quando parla, cazzo. Ehi, agava, è così che gliela spacco. Scucci qua, cambio. Fettino. Sì, Barrado, mi ascolti? Ciao Antonello. Ciao Fettino, come va? Ehi, Antonello, ogni tanto anche a me, lo sai, come tutti, si bagna, divento lumacone. Ciao Antonello, tutto a posto, tutto bene? Tanti auguri. Ehi, auguri anche a te. Pandemia di Natale, non ci siamo sentiti, e poi per morellano. No, io acqua non ho preso, sono rimasto a casa. Sono già tre giorni che è diventato un casino, e piove, non ce la faccio uscire, la prendo umido. Ma che fine avevi fatto? Non ti sei fatto più sentire? Io. Già era a casa, stavo applicando, facendo roba qua. Uscendo con Giovanna e poi tenendo la Simona, capito? Quindi non c'avevo tempo di nulla. Va bene, dai. Com'è questa radio, Antonella? La perfetta. Va bene, manda bene, dai. Allora, usiamo anche lì. Ah, voglio dire, esci bene già. Hai rispavolato l'aria vecchia. Sì, ho un Lincoln che avevo staccato, adesso lo accendo un po', lo faccio scaldare, vediamo come va. Ah, già sta andando bene, a voglia, c'è un bel segnale, c'hai. Vabbè, aiutato, vediamo un attimino. Guarda, questi sono i suoi, però sono con a minimo di watt. Cappa, già va bene, a voglia, ci mancherebbe. Andabex, vabbè, io ho visto la postante, sono entrato perché ho visto che c'era qualcuno almeno a salutare. Capaccia Calario poco fa, Luca, poi sono sparito. Evidentemente stavo facendo qualche cosa. Ah, c'era che cosa? Luca, la peloce. Sì, però. Sempre ho che devo farcetto con i miei. Allora. Ma sto facendo le configurazioni nel nuovo telefono, io meno male, quasi finito. Hai visto Antonio che i soldi si compra anche il telefono nuovo, io con un telefono tutto graffiato, spaccato, per carità. Regalato pure, Guarda, io sono peggiorita, c'ho l'OG K10, c'è il vetro fidato, ma sono andato un canculo, devo stare a spendere i soldi per telefono, ce la faccio. Non esiste, basta che ti si risolva o magari l'appoggi in qualche posto, vibra e te lo trovi in terra come un imbecille, così il telefono non mi dà la vibrazione, no. Ho finito di spendere per il telefono io. Guarda, c'ho un telefonino tra di quelli modello vecchio, si guarda per la TV e ce l'ho ancora qui conservato. Poi c'ho il Nokia Lumia, che è nuovo fiammante, figurati tu, quello lo puoi sbattere a terra, non gli succede nulla al vento. Ed è perfetto. C'è Windows sotto. Cosa vuoi dire? Che io ho un telefono, l'iPhone 12, che non se lo vedi, per carità. No, aspetta un attimo, di te. Ma ho comprato uno l'anno scorso io, di quelli Mediacom. Quanto è durato la batteria? Oh, 2 mesi, poi si è andata a fanculo. Ho comprato 60 euro dello Speed. È nuovo, ce l'ho dentro la scatola, l'ha fatto. Lo uso lo mi, di riserva, quando trovo la batteria ai cinesi lo tengo di riserva, nel caso si rompa il petto del tutto per non stare, oppure magari capita che le leggi mi impatta il processore come è successo con Copa 4, c'ho sempre quello di riserva, capito? Andabex, alleluia. Ah, che con l'altro mi trovo poco bene. È che quando non fa più aggiornamenti è un casino, non mi arrivano più le notifiche, era lento, capito? Così che sono stato costretto a prenderlo. Cazzo, che gigante, il Galaxy A20. Grande. Con l'altro mi trovavo benissimo, capito? Anche con questo è questione solo che adesso questo qua è più grande. Ah sì, lo volevo prendere, ma io non l'ho preso, perché sinceramente, come stai dicendo tu, è grande. Ho preso l'ultimo della Motorola, bellino, un po' più piccolo di quello A20, però va bene. No, io lo stesso, io già hai visto cosa ho, quindi se lo metto più grande già è più scomodo anche al lavoro, quanto a metterlo in tasca, a fare, dire, baciare, abbracciare e quant'altro. E quello è casino quando sono così grandi, perché appunto al lavoro, a metterlo in tasca, per quello non mi piace, capito? L'altro era più piccolo, però va bene, capito, ormai mi tengo in più. Kappa, vabbè, dai, riprendete pure. Oh, Jesus. Io Flyer. La gente se lo mette, ho visto se lo mette nel sereno, il cazzo di telefonino. Forse si era la sedia, crembato. Allora, vabbè, tu pensa che ho un record io nei telefoni, ne ho comprato nuovo la mattina, non la mattina, aspetta, l'avevo comprato nuovo il sabato mattina, la domenica l'ho configurato, lunedì mattina l'ho schiacciato. Figurati, lui, basta con gente le... Sono vendendo. Io sempre la cassetta di mezzo. Solo che c'è il problema che a volte magari d'estate il giubbotto non li usi, devi mettere anche le chiavi di casa, la chiave di casa, il portafoglio, cose del genere, capito? A volte si graffia. E quindi è così, anche quando andavo sopra il tetto, non è che andavo a rispondere al telefono, sai, ma così mi accendeva il telefono in terra, c'è buonanotte. Ma scusa Antonio, che devo rispondere a un'email che mi hanno mandato, mi devo assentare, sono in quel rischio comunque, sentiamo dopo nel caso. Ehi, dai, d'accordo, dopo la ciao. Ehi, io sono qua, lui, dai, sono al PC. Gappa. Ehi, ti ho mandato la foto, Antonio. Ah, infatti mi hai fatto un messaggio adesso. Ma io ti stavo, vediamo come, adesso ci metto il numero tuo adesso. Quel numero. Su WhatsApp, mi avevo dimenticato di mettercelo. Chiara. No, casa Mario Iaiso, un 857 di carta di grandezza, cazzo. Che bellino, davvero. Cazzo, funziona bene. Capito. È perfetto. radio. Questo è il tribanda però, non è il quadribanda. E vabbè, bisogna accontentarsi, meglio di niente già. Il pote funzioni. Qui sono dalle 150 alle 250 euro per il quadribanda. Avrei a vostro, ma una banda in più. E quindi tutti che siete in anno aggiungo un prezzo. Troppa differenza c'è, Antone, capito? Con quei soldi ti compri un veicolare buono e lo metti a parte. Va? Ah beh, quello sì. Quello già è vero. Sale il coso, l'8500 è vivo, benissimo. Lo uso, il 27 in V e nuovo, va perfetto. Anche frequenza marina la prova. Con la antenna. Pensavo che l'antenna esistesse già aveva problemi, invece funziona bene, funziona. Vuole solo spostarsi dalla mantola. Capito? Io imbecille a cazzo preso, l'ho messa a fianco alla mantola, con qualcosa, mi lasciavo stazionare un V8. Come attaccato lineare, cazzo, ha giocato un finale, ha giocato il fatto. Ma vai, l'ho preso in tempo. Gli ho sostituito il finale, adesso tira fuori 450, quello là, ed è perfetto. Purtroppo è così. Nella mattova non ci vuole nulla vicino, devi rimettere di distanza almeno un metro, due metri di distanza dalla mattova, le antenne. È così, aspetta un attimo, via. Ho lasciato l'Eco del 4000, non gli ho cambiato l'Eco. Ho lasciato quello, va bene lo stesso. E io voglio che va bene. No, il mio però era la, quello cromato là, il tuo è quello nero, mi sa, vero? Sì, c'ho quello nero, però c'ho anche il Colles 4000, gli ho tolto la, la mascherina del Colles 4000, gli ho messo la, la mascherina del, del 2009, capito, con la cravatta. Intanto sono uguali, poi ci sono identici. E più quando scuoto il video, se c'è l'eco suo originale, l'ho lasciato così com'è, ed è perfetto. Sì, vanno bene come radio, da. No, questa l'hanno praticamente tolta dalla scatola e è fatta fare Colt direttamente, capito? Poi sono arrivata qui e aveva un piccolo problemino, quindi l'ho rispedita, gli ho fatto cambiare il display blu, li ho fatto mettere il commutatore. Lo smitterino blu gli ho fatto fare e il visualizzatore dei canali blu stesso. Una bella radio, mi sa che dava intorno ai 30 watt di piccola radio, bella. Poi l'hanno data qua a Sassari e poi da qua non so dove c'è andata a finire, la verità non mi ricordo. Mi ricordo a chi l'ho data, però poi l'altra persona non mi ricordo a chi l'ha data. Ah, capito. Non è una bella radio che quello cromato del 2009. Quella per i samurai. Quello cromato. Quello c'era bello lo stesso. Se la cromatura ci sta veramente bene, ci sta nel coso. Ma sono stati tutti cromati, a posto di essere neri, gli apparecchi sarebbe stato più bellino, la verità, eh. Avevo avuto un altro aspetto. Eh sì, adesso stanno facendo anche le scocche cromate, addirittura c'è qualcuno che se vuoi ti fa anche il disegno, però non un disegno quello adesivo, no, proprio quello tipo aerografato sopra mi, che esce molto bellino. Allora, va bene, dai. Questo è un Cobra, questo è un Cobra 200 GTL di X. E la voglia piace bene, perfetto. Pigliare il basso è così che ci voglio fare qua, ma mi sei ripirato parecchi uguali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, più 6 portate, diciamo. Figurati. Vata, vata, non voglio più nient'altro. No, vabbè, io ma ho dato via tutto. No, non ne faccio più. Mi ho svoltato l'armadio, me ne ho tenuto tre, mi batte e mi avanzo, ce n'è per i maiali, la buia. Io ne ho sei, c'ho lo iese, poi c'ho un VU di quelli cinesi, poi c'ho l'omologato della, che avevo comprato, gli ho messo il microfono, l'unico che ci va bene, perché se senti solo girare, per carità, non serve un cazzo. E poi c'ho il 2009, l'anno 87 e il 4000. Eia, spero che rispondo un attimo al messaggio. Eia. Ah, 1, 2, 3, prova. Ebbene la greffa. Ebbene Antonè. C'è la Luca, ho sentito un secondo, acceso, ho sentito a Luca. Lui è. Ehi, ciao, non mi avete sentito. Sì, c'è Luca e poi Tino. C'era Claudio, poi sbaglio, poi c'era Luca del Monte. E ma si vanno tutto. Ma Luca, Luca del Monte, perché c'era anche altro Luca? Luca qui poi c'era, sta facendo roba.